tensione ovviamente qui alle stelle, la notizia dell'arresto di Carles Puigdemont, l'arresto rocambolesco se vogliamo di Carles Puigdemont di domenica è la notizia del giorno e anche della settimana. Il governo spagnolo voleva prendere il pesce grosso e così anche il giudice Llarena, e quindi naturalmente adesso che è successo tutto questo la situazione cambia moltissimo da molti punti di vista, dal punto di vista politico, perché una delle idee che avevano avuto i politici indipendentisti era quella di costituire una specie di governo in esilio, anche se simbolico, appunto capeggiato da Puigdemont, il quale devo dire credo che non avesse idea che potesse finire così, nel senso che lui era convinto di riuscire ad arrivare a Bruxelles, dove sapeva di essere più al sicuro perché le leggi di quello Stato non sono compatibili con l'accusa che gli viene mossa dal pubblico ministero spagnolo, e pertanto sapeva che probabilmente non sarebbe stato estraditato, o se lo fosse stato, e questo era un po' l'asso nella manica, se lo fosse stato probabilmente il giudice spagnolo non avrebbe potuto accusarlo degli stessi reati di cui sta accusando invece gli altri suoi ex compagni di governo che sono in carcere qui già in Spagna. Bene, lui appunto non contava che non sarebbe riuscito a tornare a Bruxelles, e invece sembra che i servizi segreti lo stessero seguendo e che abbiano in qualche modo facilitato l'arresto proprio in Germania, che invece sì ha un reato simile a quello spagnolo, anche se con pene meno gravi, e anche se devo dire dal lato indipendentista molti fanno osservare che i giudici tedeschi sono molto più, hanno la tradizione di essere molto più autorevoli e molto più indipendenti dal potere esecutivo, e quindi alcuni pensano che sostenere la violenza, che è il fattore fondamentale perché questi reati di sedizione, ribellione o analoghi possano essere dimostrati, ecco, sostenere questa violenza è molto difficile date le evidenze di cui dispone il giudice spagnolo. Adesso appunto Puigdemont è in carcere, e come sapete bene ieri a Barcellona ci sono state proteste piuttosto ingenti, anche con alcuni episodi così un pochino più, non so se dire violenti, ma insomma che hanno più impressionato, nel senso che sono stati i soliti cassonetti fatti bruciare, queste cose qui. Insomma, la situazione politica invece, diciamo così, istituzionale catalana rimane formalmente bloccata, nel senso che Jordi Turull non è stato eletto presidente perché la seconda sessione di investitura, dove sarebbero bastate la maggioranza dei voti, non ha avuto luogo sabato perché appunto Turull era stato arrestato, e adesso vedremo cosa succederà. Personalmente prevedo che c'è una persona che probabilmente sarà presidente catalana, che si chiama El Sartadi, che è diciamo sostanzialmente un braccio destro di Puigdemont, anche se una di queste persone che lavora nelle seconde file, ma che comunque non ha nessun tipo di investigazione a suo carico ed è della stessa linea politica e anche linea culturale conservatrice da cui proviene Puigdemont, insomma tutte le carte, è una persona molto competente e quindi ha tutte le carte per poter essere la candidata più verosimile, ma prima di arrivare a questo punto naturalmente si dovrà fare molta sceneggiatura, come gli indipendentisti amano fare per giustificare questo cambio di cavallo, che però se vogliono un governo sarà inevitabile. Scelta di Madrid di come gestire la questione sembra essere comunque quella giudiziaria, una via politica è impraticabile o comunque non è stata scelta. Indubbiamente, come dire, la colpa del governo di Madrid è di aver incancrenito la situazione, questo diciamo è una colpa che il governo di Rajoy ha ormai da vari anni, in cui ha scelto appunto di da prima ignorare e poi appunto di combattere con armi improprie una battaglia che invece poteva e doveva essere lasciata nel campo politico. Il problema però non è solo questo, c'è un problema secondo me molto più grave, che è legato al fatto che l'utilizzo in questo modo della giustizia per da una parte reprimere un'aspirazione politica legittima e dall'altra utilizzando delle pressioni molto forti e molto improprie da parte dell'esecutivo sulla magistratura, in realtà lascerà delle conseguenze non solo per i catalani ma in generale diciamo sul livello democratico di questo paese, e questo non lo dico io e non lo dicono solo gli indipendentisti, lo dicono anche le Nazioni Unite o Amnesty International. Journal. Martedì scorso la Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite ha chiesto esplicitamente alla Spagna di garantire i diritti politici, per esempio di Jordi Sánchez, che era il secondo candidato che avevano scelto gli indipendentisti alla presidenza della Catalogna e a cui il giudice non ha dato il permesso di partecipare alla propria sessione di investitura, il che è davvero inaudito, nel senso che è un candidato eletto, un deputato in carcere preventivo che non è ancora, a cui non è stata ancora inflitta nessuna condanna, al quale viene impedito, con ragioni assolutamente discutibili, di poter partecipare alla sessione di investitura di un libero Parlamento eletto. Ecco, quindi queste cose sono molto gravi e sicuramente avranno delle conseguenze. Dicevo anche di Amnesty, già settimane fa aveva fatto un rapporto in cui criticava moltissimo quello che aveva fatto il governo spagnolo rispetto al referendum dell'1 ottobre e rispetto alle condizioni di incarceramento di vari esponenti politici.